sole su tutta la penisola. Il clima è tutto italiano. La bella estate, l'Italia, raccontata attraverso la stagione più calda dell'anno. Mode, fatti, canzoni e personaggi osservati con lo sguardo non convenzionale di Tommaso Labranca e da quello degli ascoltatori, che siano in vacanza oppure no. La bella estate, da lunedì alle 16, su Radio 24.